17강 Arrivare, cambiare, chiamare, comprare, credere, dare, funzionare, lavare, offrire, prestare, regalare, sentire, stirare, studiare, camicia, caramella, compleanno, disco, idea, mela, ombrello, pantaloni, quadro, regalo, stazione, telefonino, nuovo, piccolo, sporco, vecchio, adesso, allora, di nuovo, d'accordo, finalmente, insieme, pronto? va bene. 문형. Mi presti un ombrello? Sì, te lo presto. A chi regaliamo questo quadro? Lo regaliamo a Silvia. Ti regala un nuovo telefonino per il tuo compleanno, tuo padre? No, non me lo regala. Diamo le caramelle a quei bambini piccoli? Sì, le diamo a loro. 대화. Pronto? Sono Massimo. Mi senti, Claudia? Pronto, pronto. Chi sei? Non ti sento bene. Claudia? Oh, ti chiamo di nuovo. Ah, Massimo, adesso ti sento bene. Oh, finalmente. Ma quando cambi il tuo vecchio telefonino? Perché non me lo compri tu? Il mio telefonino funziona benissimo. E tu hai il problema, credo. Senti, tra qualche giorno è il compleanno di Lucia. Che cosa le regaliamo? Le compriamo dei dischi? Buona idea, bel regalo. Allora andiamo insieme a comprarli? D'accordo, ci vediamo alla stazione Termini alle 6. Va bene.